E allora la nostra radio è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. Pelo pelo, ma ce l'hai fatta. E dai, e come ogni giovedì pomeriggio questa è Attica Blues. E allora benvenuti, e siamo quasi puntuali, 16:10. Abbastanza. Col quarto d'ora accademico, 10 minuti accademici. Beh, oggi continuiamo il percorso del dub cominciato ormai per tutto il mese di giugno. Abbiamo già fatto 3 puntate, questa è la quarta. Sì, abbiamo iniziato appunto dal dub giamaicano, a cui abbiamo dedicato ben 2 puntate. Poi abbiamo proseguito, ci siamo spostati in Inghilterra. E adesso partiamo ancora dall'Inghilterra, ma faremo un giro del mondo. Piccolo giro del mondo, va. Direi un lungo giro del mondo, sempre al ritmo di dub. Allora, direi di iniziare questo viaggio con gli Ubiforti. Siamo nel 1981 e loro fecero uscire già nel 1980 Present Arms, un album che rimase nelle classifiche appunto londinesi per 38 settimane, e nell'ottobre del 1981 fecero uscire Present Arms in dub, appunto la version dub di questo favoloso album, e appunto che prevedeva ben 8 tracce e fu il primo album ad entrare, il primo album dub a entrare nella top 40 della classifica appunto inglese. Quella che ci sentiamo è proprio Present Arms in dub, che dà il titolo all'album. Diciamo che fu il primo disco dub a entrare in classifica, pure perché fu praticamente il primo disco dub inglese uscito. Sì, probabilmente sì, siamo appunto all'inizio degli anni Ottanta. Prima c'era solamente il dub giamaicano, quello delle origini, quello che avevamo già detto all'inizio, degli ingegneri del suono, di King Tubby, di Lee Perry. Ma era già un album con una sua identità comunque, aveva già un suono inglese ben definito. rimaniamo sempre sugli Ubiforti. Quella che ci sentiamo è Doctor Strange Dub, sarebbe una version di Madame Medusa, che è un album uscito alla fine degli anni 70, il primo album degli Ubiforti, ma che ebbe già un notevole successo di critica. E tra l'altro c'è anche una bella versione reggae di Strange Fruit, proprio di Billie Holiday. Questa è Doctor Strange Dub. Passiamo a un altro storico duo inglese, o quantomeno radicato in Inghilterra. Stiamo parlando di Alfa e Omega. Questa è la loro Who is the Ruler? of the moon. Allora, Alfa Omega, che è un duo composto dal bassista Kristin Wurridge e il tastierista John Sprosen, e qui siamo già alla metà degli anni Ottanta, e loro hanno sviluppato un suono definito proprio dalla critica unicamente britannica, quindi già qui si differenziano molto dal dub proprio giamaicano. E qui in realtà poi siamo nel 1992 con questo Who is the Ruler, che è tratto dall'album Watch and Pry and Overstanding. Sonorità decisamente più digitali, appunto prettamente inglesi, quelle di Alfa Omega. E passiamo a un altro grande del dub inglese, stiamo parlando di Dennis Bowell, uno chef d'orchestra, diciamo, l'orchestra, la band di che poi sarà di Lynton Kwesi Johnson, l'orchestra che girerà il mondo, comunque anche col nome di Dennis Bowell Orchestra. Sì, adesso ci ascoltiamo proprio questo Beavis Tune del 1980 che fa da colonna sonora, infatti proprio Dennis Bowell, che poi nasce in realtà alle Barbados, lui non è né inglese né giamaicano, ma comunque poi si è trasferito radicato in Inghilterra, appunto lui faceva parte era stato chiamato proprio a comporre la colonna sonora di un film tra l'altro meraviglioso in cui compaiono pure gli Ashwad, che era Babylon, appunto ci sentiamo questa Beavis Tune. Qui si sentono le influenze caraibiche, le influenze della Barbados. Ma è tutto rigorosamente suonato. E allora l'abbiamo nominato prima, stiamo parlando di Lytton Kwesi Johnson, questo è un suo dub. Shocking dub. Lui in realtà era un dub poet. È un dub poet. Quello stile parlato, tipo poesia. Adesso passiamo a un altro grande artista. Lui è nato in Giamaica nel 1950, ma ben presto pure lui si trasferì prima a Londra e poi in India, a Bombay. E tra l'altro si sentono molto le influenze indiane, assolutamente indiane. Poi lui partendo dal reggae, poi spostandosi verso il dub, perché lui registrava per Adrian Sherwood, per la ONU Sound, e poi si è spostato appunto anche alla musica ambient. Parliamo proprio di Bin Sherman, una delle voci più pure del reggae. E partiamo subito con un suo brano dub che si chiama Dreaming Dub. Someone who you don't know like someone, and someone. It is a miracle. Intanto ci giungono voci da Taranto, dove dei lavoratori hanno occupato il comune, gli uffici del comune. Fra poco cercheremo di fare una diretta. Intanto continuiamo con la selezione e continuiamo proprio con Bing Sherman. Sì, qui siamo appunto a metà degli anni 90, lui si trasferisce in India e pubblica un album acustico, Miracle, che poi sarà remixato da diversi DJ britannici, un album veramente veramente tosto, ma veramente bello. Ci ascoltiamo Solid as a Rock, che è Steve Osborne appunto remixato, Bing Sherman. Ci avviciniamo anche alla musica elettronica, alla musica techno, che poi caratterizzerà gli anni 90 e 2000 fino ai giorni d'oggi, appunto della musica dub inglese. Sì, sono sonorità molto più spinte, si va molto su di beat. Be true to yourself. Allora passiamo a Zion Train. Sì, qua il passaggio mi sembra abbastanza naturale. Zion Train, che è formato da Neil Rick Peach e Ben Hamilton nel 1988, un duo di Oxford, e poi completato nel 92 dalla cantante Molara. E poi ancora rivoluzioni nel 2001, alla nuova line up con Dave Nasello alla tromba e Big al trombone, e loro che arrivarono pure a vincere un Grammy come miglior disco dub giamaicano nel 2007 con Live as One. Quella che invece ci sentiamo è un pezzo un po' più vecchio e si chiama Get Ready, appunto, Zion Train. Get ready, brothers and sisters, get ready. Get ready, we got to dance our troubles away. Forget about sadness, cause I know for sure there'll be gladness. Forget about your weakness, cause the music will heal your sickness. Tra l'altro sono venuti pure varie volte a Roma, hanno suonato al Forte Prenestino, mi pare pure al Villaggio Globale. È che non so proprio al Villaggio Globale, non so se ti ricordi, non so se c'eri, ma lei era proprio incinta con sì, questo c'ero. Pancione, ma comunque suonava, e poi tra l'altro tirava fuori 3.000 strumenti da questa cassa panca sì. che aveva, e tutto improvvisato, ma tutto veramente funzionale e bello. Thank you. Zion Train, che tra l'altro circolavano con un carro armato in quel di Londra, avevano una specie di mezzo cingolato, perché andarono a vivere tutti quanti insieme in una specie di comunità, in una specie di piccolo fortino, chiamiamolo così, e andavano in giro con questo mezzo cingolato, quindi erano pure abbastanza scenici per le vie di Londra. E adesso invece ci spostiamo a un artista più recente. Il suo album di debutto è del 2011 e si chiama proprio come lei, Holly Cook. Lei è una cantante doppiamente figlia d'arte, perché il padre era il batterista dei Sex Pistols, Paul Cook, e sua madre era la corista dei Culture Club, e tra l'altro ha avuto come padrino Boy George lei, quindi però si è poi discostata anche dall'ambiente punk del padre per appunto spostarsi verso ambienti più reggaeggianti e soprattutto dub, e gli è uscito appunto l'album di debutto del 2011 e la version dub nel 2012, da cui ci ascoltiamo questa Milk & Honey dub. Adesso continuiamo il nostro viaggio, ci spostiamo in Nuova Zelanda. Usciamo dall'Inghilterra, usciamo dal dub inglese. E facciamo un bel viaggetto, ci spostiamo appunto in Nuova Zelanda, dove alla fine degli anni 90 si formò un ensemble di sette elementi di Wellington, loro erano o sono, che si chiama Fat Freddy's Drop. Loro inizialmente erano un ensemble che fondevano dub, reggae, jazz e anche techno. E poi a inizio degli anni 2000 fecero fortuna soprattutto in Europa e con diversi DJ tedeschi che cominciarono a spingerli, a produrli. E il loro primo album, che si chiama appunto Based on a True Story, del 2005, rimase proprio in classifica per 2 anni in Nuova Zelanda. Quindi insomma non avevano forse hanno conquistato la loro nicchia, diciamo. Sì, forse non avevano proprio molta concorrenza, però insomma è un gruppo carino. Io ho avuto modo di vederli all'auditorium qualche anno fa e fecero tra l'altro tutto esaurito e fecero ballare tutta la cava dell'auditorium. Quindi insomma adesso ce li sentiamo proprio da quel disco. Il brano si chiama Ernie. Allora salutiamo Giacomo Mazzo, sempre in ascolto sulle frequenze di Radio Onda Rossa. In streaming naturalmente dal sito www.ondarossa.info. Riprendiamo con la musica, ci spostiamo in America. Ultimo brano per noi, loro sono i Groundation, da un album del 2011, Dub Them All. Allora, visto che fuori da Londra siamo riusciti a girare solo poco, casomai rimandiamo una prossima puntata sul dub internazionale, sul dub in giro per il mondo, che comunque è composto da numerose band, tra cui Fat Freddy Boy e Fat Freddy Drop e le altre varie che avevamo preparato e che avevamo in scaletta. Sì, ci sono rimasti appunto fuori Groundation, che sentiamo qui in conclusione, ma anche Easy Star All Stars, ma mi vengono in mente anche gli Alma Megretta, come non citarli e passarli. E invece giovedì prossimo ci vediamo e ci sentiamo per una puntata dedicata ai Jazz Club, quindi insomma la musica registrata nei vari Jazz Club. Ne avevamo già fatta una sul Village Vanguard, sì. Però insomma non è l'unico, forse il più prestigioso, ma comunque ce ne sono tanti altri, ce li sentiremo. E allora un saluto a tutti e a tutti, ci andiamo a sentire giovedì prossimo. E nel frattempo vi invitiamo a seguirci nella nostra pagina Facebook e Twitter, Attica Blues. Tomorrow, what if them show themselves?